Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Qualche giorno fa il ministro della giustizia Alfano ha annunciato: costruiremo in Italia nuove carceri. D'altronde quelle che ci sono strutture vecchie e soprattutto sono strutture superaffollate alla faccia dell'indulto di un paio di anni fa. Secondo una relazione già in mano al ministro, marzo 2009 sarà il punto di non ritorno per i 205 penitenziari italiani. Si toccherà infatti quota 63.000 detenuti, che è il numero di popolazione carceraria tollerabile con queste strutture. Nuove carceri da costruire dunque, ma il problema ovviamente è anche più immediato. Ed ecco che la politica e il ministro Alfano vorrebbe far approvare un decreto legge su quella che è la cosiddetta messa alla prova. Funziona così sostanzialmente la proposta: per chi ha commesso reati al di sotto dei 4 anni di pena prevista si evita il processo, si evita la condanna, si estingue il reato se in cambio si accetta di fare lavori socialmente utili. Detta molto in soldoni, molto sinteticamente, questa è una misura alternativa al carcere che serve a eliminare appunto l'affollamento, ma che politicamente, lo sappiamo, è mal digerita soprattutto da Alleanza Nazionale e dalla Lega all'interno del governo, come che la vedono come una sorta di amnistia, insomma di cedere sulla linea della fermezza in termini di giustizia. E infatti questa proposta è stata per ora rinviata, era prevista in Consiglio dei Ministri una volta, poi c'è stato un altro incontro di vertice di governo, ma per ora viene rinviata, anche se Berlusconi ha detto entro dicembre bisognerà fare qualcosa in tal senso. Che fare dunque per le carceri che scoppiano? Costruirne di nuove? Le pene alternative funzionano? La messa alla prova, che ne pensate? È una soluzione pratica che può essere utilizzata? Ne vogliamo parlare con Angelo Marroni, che saluta, il garante dei detenuti della Regione Lazio. Buongiorno e benvenuto. Così come voglio salutare il senatore Luigi Ligotti dell'Italia dei Valori, capogruppo in Commissione Giustizia. Buongiorno senatore Ligotti. Buongiorno. Alle 9:10 saluto insieme al senatore Ligotti e Angelo Marroni anche l'onorevole Roberto Cota, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Cota, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, il problema delle carceri che scoppiano, come si dice con questi titoli anche di giornale, carceri sovraffollate, e la discussione politica sulla messa alla prova, che potrebbe essere una soluzione non ben vista, almeno così sembra politicamente, soprattutto da N Lega. Angelo Marroni, lei come detto è garante dei detenuti della Regione Lazio, è effettivamente così l'allarme da lanciare? Carceri, bomba orologeria addirittura si leggeva in un titolo, credo sull'Unità un paio di giorni fa, è davvero così secondo lei? No, l'allarme è sicuramente da lanciare, perché i detenuti aumentano, ormai aumentano dai 700-800, 1000 detenuti al mese, per cui effettivamente già oggi siamo oltre 58, quasi 59 mila detenuti, e aumenteranno ancora, e le strutture non sono in grado di ricevere, perché poi bisogna stare attenti, perché questo discorso è il tollerabile, è un discorso fasullo, è un discorso falso. In realtà il discorso che bisogna fare è quello della capienza regolamentare, perché quando si dice tollerabile si intende già un carcere iperaffollato. E la capienza qual è? È quella cifra di 43.200, credo, la capienza regolare? 48.000, ma 48.000. È una capienza regolamentare, che tenga conto per esempio che in alcune carceri poi questa capienza regolamentare è anche negata dal fatto che spesso ci sono lavori in corso, come per esempio a Regina Coeli a Roma, vi sono sezioni che sono chiuse perché ci sono i lavori, quindi la capienza si ridurrebbe ancora, ma quella regolamentare. Ma in effetti, se noi usciamo dalla regolamentare, entriamo nella tollerabile, la tollerabile è del tutto arbitraria, un giudizio arbitrario che dà il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma che non ha fondamento giuridico, né legislativo, né tecnico, di nessuna natura. Soltanto si dice mettiamoli in 8 in una cella invece dei 4 che ci dovrebbero stare. Ecco. Lei pensa che le misure alternative siano una soluzione? E perché la gente comune le vede come un qualcosa spesso di, come dire, dai, di un'amnistia, di un voler dire beh, insomma, allora io commetto un reato e poi me ne sto fuori? Io non parlo di misure alternative, parlo più correttamente, come ha fatto l'onorevole Pisapia in una proposta di riforma del codice penale di misure diverse dal carcere, sempre punitive, ma diverse dal carcere. In realtà l'allarme che c'è contro le misure diverse dal carcere è un allarme che nasce da un'opinione pubblica e viene orientata intanto sul fatto come se ci fosse una criminalità in aumento, cosa che non è vero, che ci fossero reati in aumento, cosa che non è vero. Oggi il Sole 24 Ore lo spiega molto bene, furti, scippi e rapine calo del 10%, stanno calando i reati, e oggi sul Sole 24 Ore, prego continui. Marlo. Messaggio che drammatizza la situazione e rende un'opinione pubblica particolarmente allarmata, ma poi c'è un altro problema, che nel carcere in realtà, quando è affollato peraltro, tutto avviene meno che una cultura alla legalità, avviene casomai una diffondersi della cultura della illegalità. Il punto vero è che bisogna pensare a pene diverse dal carcere, che possono essere tantissime, possono essere interdittive, possono essere di altro genere, e tra le quali anche la messa in prova, ma non solo la messa in prova. No, certo, a proposito però della messa alla prova, visto che è quella che si fa, che fa più discutere politicamente, Roberto Cota, la Lega è, ci può confermare che è contraria a questa misura, e se sì, perché? Ma prima di essere contrari rispetto a qualcosa dobbiamo vedere questo qualcosa, quindi dobbiamo vedere il testo del provvedimento, dobbiamo discuterlo. Adesso possiamo fare soltanto ragionamenti generali, perché è ovvio che parlare prima non è mai, senza conoscere il testo diventa sempre molto antipatico. Allora, un ragionamento generale per quello che possiamo fare è questo. E cioè, noi dobbiamo stare molto attenti a fare degli indulti, diciamo indulti direttamente o indirettamente, e quindi la nostra preoccupazione è che non si porti in Parlamento e non si approvi una legge che sia un indulto mascherato, perché io ho sentito parlare di misure alternative alla detenzione, bisogna vedere in che contesto, perché l'indulto che è stato approvato nella scorsa legislatura, che ha avuto, che doveva avere, secondo chi l'ha presentato, un effetto deflattivo per quanto riguarda la presenza delle carceri, non ha avuto da un lato questo effetto deflattivo, perché sostanzialmente i dati di cui disponiamo sono dati secondo i quali la stragrande maggioranza delle persone rimesse in libertà poi è ritornata in carcere perché ha ricommesso degli altri reati, e poi ha avuto anche delle conseguenze negative dal punto di vista della difesa sociale, perché evidentemente queste persone, se sono tornate in carcere, hanno commesso dei reati, e in alcuni casi persone scarcerate con l'indulto hanno commesso anche dei reati gravi. Allora, il ragionamento che, e quindi da qui le nostre preoccupazioni su misure tipo la messa in prova, eccetera, sì, eccetera, che non siano indulto mascherato. Bisogna invece fare un ragionamento diverso, e cioè renderci conto che nel nostro sistema bisogna ritornare ad un meccanismo dove la pena sia effettiva. Oggi la pena non è effettiva per tanti motivi. Perché c'è un abuso, questo oggettivo, di misure alternative alla detenzione, perché le sentenze di condanna arrivano spesso dopo tanto tempo rispetto al reato originariamente commesso, e nel frattempo anche necessariamente, perché le leggi hanno dei termini di fase per quanto riguarda la custodia cautelare, la gente che viene poi condannata è uscita dal carcere anche per reati gravi, e quindi anche qui c'è un problema di sfasamento tra la pericolosità sociale del soggetto e la presenza in carcere. Ma mi scusi, lei dice c'è addirittura un abuso di misure alternative, sarebbero ancora più piene le carceri se non fosse così, voglio dire, il problema carceri che già però c'è. Io la domanda della ribalto in un altro senso, ma sì, la nostra preoccupazione è quella di non avere le carceri, quella di avere le carceri piene, o di difendere i cittadini, le persone normali, le persone oneste che si trovano dei delinquenti pericolosi in libertà? Ma forse entrambe, cioè non è già chi sta in carcere questo, sconta la pena della libertà. Io sono d'accordo, però quando noi ci troviamo persone condannate già in primo, diciamo già con sentenza definitiva, chiedo scusa, per reati gravi, e che poi successivamente vengono rimesse in libertà quando vengono successivamente indagati per reati della stessa indole, oppure persone che sono condannate per reati gravi e che sono considerate per la stessa condanna socialmente pericolose e vengono rimesse in libertà anticipatamente con misure alternative. Qui stiamo parlando del problema logistico delle carceri o invece stiamo parlando di una esigenza di difesa sociale che non è rispettata? Sì. Chiudo, scusi, questo mio intervento dicendo questo, che spesso i problemi si risolvono con il buon senso. Ma a volte abbiamo visto nella applicazione delle norme da parte della magistratura, di certa magistratura, questo buonsenso mancare. Allora, se manca il buonsenso nell'applicazione delle leggi, forse bisogna anche ragionare su leggi che lascino soltanto la via del buonsenso. Io per esempio ho studiato insieme ai colleghi della Lega una proposta di legge che prevede questo, prevede che quando si è di fronte a reati che sono particolarmente gravi, e quindi parlo di omicidi, sì, parlo di associazione per delinquere, parlo e il soggetto è stato già condannato con sentenza passata in giudicato in precedenza per un reato della stessa indole, quindi recidivo, appunto, per questo soggetto, quando c'è la esigenza di applicare una misura, sì, cautelare, la misura cautelare deve essere in carcere. No, è stato chiaro. Io do un altro dato sul quale vorrei coinvolgere anche il senatore Li Gotti, che tra l'altro poi lo spiegheremo adesso, è una situazione, una posizione politica anche sui generis, volendo, ma lo chiariremo. Un altro dato che mi ha fatto riflettere, che è stato dato proprio da Alfano, tra l'altro. Ci sono circa 170.000 persone che in media ogni anno vengono arrestate, portate in carcere e rilasciate dopo 5-6 giorni perché, che ne so, non è confermata la misura del fermo, non è tramutata in arresto, piuttosto che c'è un processo per direttissima, una condanna sotto i 2 anni e dunque c'è una pena alternativa al carcere. Insomma, le cosiddette porte girevoli, no? Per 170.000 persone che entrano, escono, stanno 5-6 giorni, ma creano ovviamente in quei 5-6 giorni, in un entrare e uscire, un problema di affollamento. Affollamento incredibile. Il senatore Luigi Li Gotti, senatore, lei ha questa posizione particolare, nel senso che l'Italia dei Valori è contraria alla messa alla prova, l'ha detto il Di Pietro, però lei invece è a favore, è così, lei è favorevole alla messa alla prova? Sì, io ho presentato un disegno di legge nel maggio di quest'anno, riprendendo una proposta che era già pendente nella scorsa legislatura, me ne ero occupato come sottosegretario. Si tratta di utilizzare questo istituto che già esiste, e viene applicato dopo le condanne definitive, anticiparla alla fase delle indagini, cioè gente che comunque non è destinata ad andare in carcere, quindi non ha un effetto deflattivo sul carcere. Per lei quanto è la pena massima per la quale potrebbe scattare, sotto la quale potrebbe scattare la messa alla prova? La proposta di legge che ho presentato è 3 anni, cioè esattamente come sarebbe qualora si applicasse l'istituto dopo la condanna definitiva, cioè il tetto dei 3 anni. Cioè lei dice, tanto uno con i 3 anni di carcere, un incensurato, non andrebbe comunque in carcere? No, anche l'affidamento in prova. Avrebbe l'affidamento in prova, quindi tanto vale istituirlo per legge, la messa alla prova, per chi ottiene una pena sotto i 3 anni di carcere. Cotta ci ha fatto capire che insomma un indulto reale o un indulto mascherato, quale potrebbe essere, alla Lega non starebbe bene. Lei come la vede? L'Italia dei Valori, ricordiamo, è stata contrarissima all'indulto, anche l'Italia dei Valori. Noi siamo stati contrari all'indulto, ma questo non è un istituto che già esiste e viene applicato e ha dato dei buoni risultati, nella misura dell'81% le persone ammesse all'affidamento alla prova hanno superato la prova. Si tratta di anticipare l'applicazione dell'istituto alla fase delle indagini, quindi si evitano i processi, ma non è un istituto che viene inventato, insomma già esiste. E come la mette con le direttive di Di Pietro? Di Pietro ha le sue sensibilità, io le ho leggermente diverse. Io sono convinto della bontà di questo istituto e della possibilità, per i risultati che ha dato nel passato, la possibilità di anticipare la fase delle indagini. Si tratta di una deflazione dei processi, è inutile fare un processo se poi l'esito è quello dell'affidamento in prova, si può utilizzare l'istituto a richiesta del condannabile sulla base di un programma di prescrizione nella fase delle indagini, evitando anni di processo. Senta, onorevole Cota, perché l'idea non va bene? Cioè, per esempio in America le vediamo anche nelle immagini, no? Qualcuno ha tirato fuori l'immagine di Naomi Campbell che faceva la spazzina invece di andare in carcere, cioè fare dei lavori socialmente utili, voglio dire, un modo di scontare la propria pena, insomma, ripagare la società. Spesso si dice, si facciano lavorare i carcerati. Se uno commette un reato, magari scendendo dai 4 anni come propone Alfano, ai 3 anni o ai 2 anni, quindi un reato minore, facendo un lavoro socialmente utile, perché la vede come un rischio di indulto mascherato? Ma no, ma scusi, a parte che se mi fa la domanda facendo il paragone con gli Stati Uniti, è un po' giustamente dal suo punto di vista una provocazione, perché negli Stati Uniti esiste e viene applicato il principio dell'effettività della pena. Quindi, sì, lì in carcere si va, effettivamente. Certo, allora noi ragioniamo con un sistema, facendo il paragone con un sistema dove l'effettività della pena esiste e dove appunto l'affidamento in prova è un modo per scontare le pene lievi. Da noi esistono invece svariati istituti che consentono di non scontare le pene lievi. Esiste la sospensione condizionale della pena che arriva fino a 2 anni, 2 anni e 6 mesi per chi ha dai 18 ai 21 anni, esiste l'affidamento in prova al servizio sociale che arriva fino a 3 anni e che quindi che consente in maniera quasi automatica di non scontare la pena. Quindi oggi, a fronte degli istituti che noi oggi già abbiamo e che pongono seri problemi di effettività della pena, se ci aggiungiamo un nuovo istituto che interviene ampliando diciamo ulteriormente il principio il principio opposto all'effettività della pena. Ma è solo una questione, anni, mi scusi, è solo una questione di far scendere da qua, perché il senatore Ligotti ci ha già detto che chi poi prende una pena di 3 anni incensurato come prima condanna non va in carcere, si tratterebbe solo di istituzionalizzarla. Non va in carcere, oggi non va in carcere perché purtroppo c'è un'applicazione spesso automatica dell'istituto dell'affidamento in prova, nel senso che l'affidamento in prova dovrebbe essere dato soltanto allorché ci dovesse essere un esito positivo a tutta una serie di valutazioni, e spesso viene dato, tra virgolette, quasi in automatico. Allora, se vogliamo ragionare su una revisione di tutti i sistemi, di tutte le misure, alternative alla detenzione, va bene, facciamolo. E noi ovviamente siamo disponibili e in ordine a quello che è la possibilità di impiegare le persone condannate in lavori socialmente utili, in lavoro all'esterno, noi siamo favorevolissimi, anzi come principio, anzi l'abbiamo anche più volte strinsecato in proposte di legge, in idee che abbiamo tirato fuori. Quello che noi non vogliamo è che si aprano ulteriormente estendere questo, ma passerà mai secondo lei? Entro dicembre Berlusconi ha detto ci va fatto. Ma io questo non lo so, lo vedremo. Lei tenga conto anche di una cosa, prima di tutto poi vogliamo vedere il testo e ragionare. Tenga conto di una cosa, che per quanto riguarda il passato e quindi i reati commessi prima del 2006, noi ci siamo trovati di fronte al combinato disposto dell'indulto più della legislazione sulle misure alternative alla detenzione. E quindi ci siamo trovati di fronte a reati anche gravi, a persone anche socialmente pericolose rimesse in libertà. Sì, ma l'indulto è stato, ma questo è parere personale, una cosa sbagliata, ma la popolazione, gli italiani l'hanno percepita così, secondo me, giustamente. Allora, andiamo dagli ascoltatori, poi un attimo di pubblicità. Ivana da Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, sono un'infermiera del 118 ed ho spesso portato dei detenuti, con delle invalidità a Regina Coeli a Roma. E mi è capitato una volta di rimanere al Passo Carraio perché non avevo il documento, e quindi ho visto che uscivano da queste carceri il 90% delle persone erano extracomunitari, persone insomma di altri paesi. Voglio dire, ma è possibile che questa gente non può scontare la pena detentiva nel loro paese, e, diciamo così, svuotando le carceri italiane? Sì, cioè, fa scontare la pena. Gente... commette un reato, deve essere rispedita dal proprio paese. Ci vuole un accordo bilaterale. Tanto per darle la cifra reale, gli stranieri in carcere sono 21.366, sono il 38%, meno del 90% che insomma lei ha visto uscire, sono il 38%. Prego Ivana, vuole concludere. Ok. Arrivederci. Grazie, vabbè. 38%, questa è la cifra, ci siamo persi le ultime parole. Marroni, prima della pausa pubblicitaria, vuole replicare. Ivana da Latina dice gli stranieri che scontino la pena nel loro paese. Ma intanto io penso che questo argomento che state trattando lodevolmente non possa essere affrontato con dei comizi. Secondo, non può essere affrontato neanche dando dati che non sono reali. Noi abbiamo degli indultati, una percentuale minima, particolarmente piccola, di quelli che hanno commesso di nuovo reato. Secondo, l'indulto non è stato una cosa sbagliata, è stato sbagliato non farlo accompagnare con un'amnestia, per cui si è andata a intasare tutta l'attività giudiziaria. Terzo, il carcere deve essere quello che dice la pena, anzi, deve essere quello che dice la Costituzione, deve punire e deve anche essere utile per il reinserimento e quindi per la rieducazione. Con questa situazione che oggi abbiamo e con quella che si vuole creare ulteriormente, l'attività costituzionale prevista dalla Costituzione non si potrà esplicare. Detto questo, poi il problema dei detenuti rimandati nei loro paesi, come lei diceva giustamente, ci vuole un accordo tra le due parti. Teniamo presente che adesso molti detenuti stranieri non sono più extracomunitari, parlo dei romeni, sì, tanto certo, per dire, certo, parlo dei polacchi, e teniamo conto inoltre che le autorità europee sostengono che questa attività dei paesi che si mettono d'accordo tra di loro dovrebbe essere fatta mandando il detenuto libero nel paese al quale lo si vuole rimandare. Un detenuto che deve scegliere, e ci vuole anche il parere del detenuto, se un detenuto deve scegliere tra lo stare in carcere qui o lo stare in carcere in Romania, io penso, se io fossi un detenuto rumeno, sceglierei di stare in carcere qui, perché comunque il carcere in Italia, che se ne dica, è meglio, anche se usare questa parola non è facile, è sempre carcere. È stato chiarissimo Marroni. Ezio da Firenze, buongiorno. Buongiorno, salve. Dica. Senta, io sono stato per alcuni anni giudice onorario al Tribunale per i minorenni e sono tra l'altro psicologo e presidente di un'associazione di volontariato. Per esempio, nel diritto minorile la messa da prova è normalmente applicata, certo. Con ottimi risultati, direi. Quindi trovo molto interessante questa proposta che viene fatta per l'adulto, insomma, in quanto spesso i piccoli reati vengono fatti anche perché non esiste una qualifica professionale, per esempio, persone che non hanno un lavoro ben specifico, quindi nella messa da prova potrebbe anche essere fatto questo, cioè riuscire a insegnare un lavoro che poi permetta a queste persone una riqualificazione, insomma, trovo molto molto interessante, in linea anche con i paesi europei, per esempio in Inghilterra viene fatto spessissimo anche nel diritto anglosassone. Quindi lei dice nella giustizia minorile dove c'è funziona e lo trova interessante come strumento. Grazie Ezio, devo dire che 4 anni, la proposta iniziale, quella del ministro Alfano, cioè per chi commette reati sotto i 4 anni, 4 anni per dire sono anche corruzione semplice, abuso d'ufficio, falso in bilancio, reati ambientali, forse è questo, senatore Ligotti, che secondo lei andrebbe perlomeno abbassato? È su questo che Di Pietro non ci sta? Lei ha proposto 3 anni, forse bisognerebbe scendere anche a 2? Guardi, la proposta del governo è identica nel testo che noi conosciamo, è identica alla mia proposta, soltanto che nella mia è scritto 3 anni, in quella del governo 4 anni. 4 anni obiettivamente non ha una sua razza. Va a coprire delle condanne elevate. Noi avevamo pensato a 3 anni perché più che altro copre la fascia dei reati contravvenzionali, cioè di persone che in carcere comunque non ci andrebbero. Sì, ma dice Cota non ci vanno perché c'è un uso distorto, insomma, un automatismo al dare le pene alternative, cosa che forse andrebbe cambiata come cultura. L'automatismo, c'è un tribunale che decide, il tribunale di sorveglianza che decide se ammettere la prova oppure no. Non c'è questo fatto di automatismo non esiste, insomma, c'è sempre un organo composto da giudici che decide se il condannato è meritevole. La stessa cosa proporla per nella fase delle indagini, con una serie di prescrizioni, risarcimento del danno, ripristino del danno, lavori utili, significano con un percorso seguito, significa evitare di fare processi che vedrebbero poi alla fine l'applicazione del medesimo istituto. Io non la riterrei nemmeno, questa riforma così rivoluzionaria, diciamo, è uno degli interventi per migliorare e accelerare i processi. Ecco. Quindi secondo lei il governo dovrebbe andare avanti su questa linea? Magari. Di sì, facendo discorsi ovviamente, valutando, facendo discorsi ancorati alla realtà, però non fa passare l'istituto della messa alla prova come se fosse un indulto, ecco, secondo me questo è un po' sbagliato. Onorevole Cota, vuole replicare? Credo che il comizio, forse a cui faceva riferimento Marroni, si riferisse a lei, ma voglio dire, non penso. Io faccio dei ragionamenti molto circostanziati e anche prendendo in esame i vari istituti, invece diciamo controparte ha fatto dei ragionamenti generici. Noi siamo disponibili a entrare nel merito delle cose, quando però si approva un provvedimento bisogna tener conto degli effetti che questo provvedimento ha e soprattutto anche degli altri istituti che sono presenti già nel nostro ordinamento. Allora, ripeto, noi oggi abbiamo un problema di effettività della pena, e cioè le pene non sono effettive e questo porta a tutta una serie di conseguenze, sia dal punto di vista del fatto che persone che hanno commesso reati gravi vengono rimesse in libertà troppo presto, sia dal punto di vista, diciamo, dell'effetto deterrente, perché il nostro sistema giudiziario viene percepito come un sistema giudiziario dove si può commettere, non dico impunemente, i reati, ma dove è più facile delinquere rispetto ad altri sistemi. Però dove la sconterebbero questa pena? Voglio dire, siccome oggi nello specifico, guardi, abbiamo fatto in tante puntate il tema dell'effettività della pena, però oggi il tema è le carceri sono piene, cioè se lei dice, insiste su questo punto, sostanzialmente non c'è l'effettività della pena, ma dove le sconterebbero queste pene? Primo, per quanto riguarda i detenuti extracomunitari, scontarla al paese d'origine. E questo è un... Se la prendono. Su questo bisogna lavorare tramite gli accordi internazionali, soprattutto tramite gli accordi bilaterali, come sta facendo del resto il governo. La stessa introduzione del reato contravvenzionale di immigrazione clandestina con un meccanismo di espulsione effettiva mediante un giudizio rapido davanti al giudice di pace va anche in questa direzione. Primo. Secondo, costruire nuove carceri laddove ovviamente sono necessarie. E terzo, va bene, ragioniamo pure su un meccanismo di lavoro all'esterno, lavoro socialmente utile, ma nelle situazioni in cui questo è possibile, garantendo le esigenze di difesa sociale. Cioè, quindi per esempio, abbassando a 2 anni andrebbe bene? Perché voglio dire, forse lo scontro è stato... Qui non riusciamo a capirci, forse, ma l'istituto dell'affidamento in prova esisterebbe ancora o non esisterebbe più? Oggi esiste già questa cosa, quindi se se ne parla vuol dire che la si vuole ampliare. Sì. Oggi un soggetto che viene condannato a 3 anni di reclusione fa la domanda, anzi non deve neanche fare la domanda di affidamento in prova, sennò non la gente non lo capisce. Oggi un soggetto che è condannato fino a 3 anni di reclusione non va in carcere. Non fa neanche la domanda, cioè la pena viene sospesa automaticamente e lui va davanti al tribunale di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza, diciamo, salvo casi eccezionali, che sono ancora ma veramente eccezionali, stabilisce che non deve scontare la pena. Perfetto. Ma deve fare un affidamento. Quindi lei dice, se se ne discute per ampliarla, e l'ampliarla lei dice no. Allora, vogliamo discutere delle misure alternative alla detenzione? Noi siamo disponibilissimi. Il principio dei lavori socialmente utili, controllati, rispetto alla situazione attuale, dove non sono di fatto controllati, perché ci sono delle maglie larghissime, oggi l'affidamento in prova al servizio sociale è praticamente libertà. Vogliamo discutere su questo, cioè sui controlli effettivi e su lavori che anche siano socialmente utili? Noi siamo disponibilissimi, ecco, però non raccontiamo delle cose che sono diverse dalla realtà. Ecco. Allora, andiamo da un ascoltatore, 800240024 per intervenire. Luigi da Venezia, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Senta, io già ai tempi delle polemiche Mastella Di Pietro, rispettivamente alla giustizia e alle infrastrutture, ero intervenuto in una discussione simile e avevo contestato al ministro Di Pietro la mancata programmazione di costruzione di carceri. E giustamente Di Pietro aveva detto: se non mi danno i fondi non ne posso costruire. Ma il problema delle carceri, a mio avviso, e non spero non mi giudichiate un esaltato, è una legge di mercato. Se in un paese, in un momento storico, più o meno come questo, pieno o non pieno di extracomunitari che delinquono, ammesso che siano loro quelli che delinquono di più, eccetera, c'è bisogno di posti in carcere, le carceri devono costruirsi. Il problema è che è quello che ha detto il ministro, ma per costruire un carcere ci vorrà 10 anni? Rapidamente al dunque. La programmazione della costruzione delle carceri è ciò che manca in Italia. I fondi vanno trovati. In attesa che le carceri possano essere costruite, ecco la risposta alla sua domanda di prima, l'Italia ha decine e decine di caserme efficientissime. Appena sono chiuse le porte perché i militari non sono più di leva, vadano lì. È obbligatoria. Benissimo, che cosa si fa? Si prendono questi locali, si attrezzano, sono già muniti di tante norme di sicurezza, misure, aperture, chiusure, cancelli. No, ma è chiarissimo Luigi, guardi, è una proposta anche sul campo e noi abbiamo avuto qualche giorno fa il PM antimafia Nicola Gratteri, forse lo ricorderete, che è quello che combatte in prima linea l'Andrangheta, e ha detto è il problema delle carceri, riapriamo Pianosa, la Gorgona, riapriamo insomma anche queste carceri, troviamo il modo, ma diamo l'effettività della pena in modo che almeno chi vede i padrini dell'Andrangheta stare in carcere ci penserà due volte. È un tema anche questo in discussione, quello di sfruttare le caserme, quello di sfruttare le stazioni delle forze dell'ordine. Silvio da Monza, poi vado al traffico. Silvio, sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, grazie. Scusate se magari dirò qualcosa che è già stato detto, ma non ho potuto seguire la trasmissione. Quello che volevo dire è questo. A me sembra che lo strumento della messa alla prova, soprattutto se limitato come da certe anticipazioni di stampa agli incensurati, di fatto non avrà nessuna utilità deflattiva. Bisogna considerare che la maggior parte dei detenuti che affollano ora le carceri sono da un lato extracomunitari, cui molto probabilmente non regolari, cui sarà praticamente impossibile dare la messa alla prova con lavori di pubblica utilità proprio per l'impossibilità di controllare. E poi dall'altro lato ci sono molti recidivi per i quali ovviamente non sarà applicato. Certo. Quindi mi sembra che questo rientri sempre un po' in quella legislazione un po' schizofrenica degli ultimi anni. Da un lato si fa l'indulto, dall'altro si aumentano molto... Cioè non impatterebbe sui numeri? Secondo me no, perché soprattutto ad esempio prima mi ricordo se fosse il senatore Ligotti, diceva ho fatto una proposta per applicare questa messa alla prova per reati per i quali vi sia una pena non superiore a 3 anni. Sì, questa è la proposta del senatore Ligotti. Allora, consideriamo questo, sarà applicato a quanto si capisce soprattutto per gli incensurati. Io faccio l'avvocato penalista, se mi capita un incensurato molto probabilmente sceglierei comunque il processo per un semplice motivo, potrebbe essere proprio perché incensurato essere assolto, nel caso venga condannato non va in carcere, la condizionale della pena, piuttosto che fare lavori socialmente utili con anche una, voglio dire, c'è sempre un effetto anche negativo. Sì, anche di immagine. No, questo è interessante come tema. Grazie, avvocato, visto che fa l'avvocato Silvio da Monza. Vorrei dare, prima di andare dal senatore Ligotti, su quello che ci ha detto l'avvocato Silvio, ancora due dati, giusto per ragionare. Gli istituti di pena in Italia sono 205, l'epoca in cui sono stati costruiti. Il 20% di queste carceri sono state costruite tra il 1200 e il 1500. Io quando l'ho scoperto ho detto no, dai, è una barzelletta. Invece no, tra il 1200 e il 1500, quando abbiamo scoperto l'America praticamente. L'80% delle carceri invece sono stati costruiti tra il 1800 e il 1900, quindi nel secolo, due secoli fa, insomma, hanno almeno 100 anni e più. Senatore Ligotti, l'avvocato Silvio, visto che anche lei fa l'avvocato, ha detto: perché mettere la messa alla prova? Se io difendo un incensurato che rischia 3 anni, mi conviene andare a processo, perché o viene assolto, e vabbè, questo è il meglio per l'avvocato e per il suo cliente, oppure tanto anche se viene condannato a 3 anni sappiamo che in carcere non ci va. Perché dovrei scegliere preventivamente la messa alla prova, quindi servizi, lavori che comunque espongono a una certa visibilità anche da questo punto di vista non certo positiva? Ma potrebbe convenire, perché per evitare di fare i processi innanzitutto, e quindi una persona non essere sottoposta a un processo, perché poi dopo il periodo di messa alla prova il premio sta nella dichiarazione di estinzione del reato. Ah, è questa la cosa. E quindi ci sarebbe questo beneficio, questo tipo di incentivo. Quindi è vero, non va in carcere comunque, se anche prende 3 anni, ormai l'abbiamo scoperto che non va in carcere, però la messa alla prova estingue il reato. E quindi non... dopo il decorso del tempo estingue il reato. Se l'esito della messa alla prova è positivo, estingue il reato. Poi, scusi, volevo fare un'osservazione. Sì. Il piano carcere risale, della costruzione risale alcuni anni fa. E non si riescono a costruire se non a ristrutturare i vecchi istituti. E poi il problema è chi costituisce i detenuti. Noi abbiamo la previsione della diminuzione della polizia penitenziaria da 44.000 a 40.000. Chi va a custodire i detenuti quando si costruiscono le carceri? La finanziaria porta un taglio del 10% del personale dell'amministrazione penitenziaria. Quindi fare la faccia feroce e poi non avere la polizia penitenziaria che custodisce e vigile e parlare di cose inutili. Angelo Marroni, lei come detto è il garante dei detenuti della Regione Lazio. Che cosa fa il garante dei detenuti e quali sono le richieste che le pervengono, le più numerose, le più frequenti? Intanto voglio dire una cosa, io sono d'accordo con il senatore, noi abbiamo nel Lazio a Rieti un carcere finito, nuovo, finito, che è vuoto perché non c'è la possibilità di dare il personale necessario a un carcere che potrebbe ospitare 300 detenuti, quindi Rieti è finito, non si apre e quindi sicuramente decaderà perché non c'è il personale che lo possa attivare. Questa è la prima cosa, quindi quando si dice nuove carceri, già ci sono, uno non si apre. Perché non c'è il personale. Secondo, c'è una legislazione che produce carcere, la Bossi-Fini, la Cirielli, la Giovanardi producono carcere, quindi anche se noi diciamo quello che sento dire, in realtà dobbiamo pure domandarci com'è che ci sono 58.000 detenuti e com'è che il ministro giustamente dice ce ne saranno 60.000, 62.000, lo dice perché la legislazione che attualmente è in vigore produce carcere, non produce messa in prova. Inoltre il sistema della messa in prova è usato nella giustizia minorile ed è ottimo. Questo ottimo. Ce l'ha detto il giudice, appunto, che è intervenuto. Perché, e poi infine voglio dire, sì, c'è stata una commissione presieduta dall'onorevole Pisapia che ha concluso i suoi lavori e li ha depositati al Ministero della Giustizia, di riforma del codice penale e di riforma del codice di procedura penale. Queste riforme ottime, se applicate, non sarebbero sicuramente dissuasive. Lei sa che a ogni governo c'è appunto un tentativo di revisione, prima c'era stato Nordio, poi c'è stato Pisapia, cadendo i governi temo che le proposte cadano con i governi, purtroppo è un brutto vezzo della politica, non sto dicendo che sia così, però veniamo, Marroni, mi risponde invece alla questione, la figura del garante. La prima domanda che mi viene è sicuramente la questione della sanità. Sì. Il detenuto ha diritto ad essere curato nella sua salute e questo è un primo problema serio. Adesso la sanità è passata, penitenziaria è passata alle ASL, questo è un primo problema molto serio perché i detenuti sono anziani, sono vecchi, non è vero che entrano ed escono come niente fosse e si ammalano come tutti noi che siamo fuori. Secondo, l'altro problema che viene fuori è l'affettività, cioè la lontananza dalle famiglie, quindi la pena, l'ordinamento penitenziario dice che la pena cittadini deve essere espiato in un luogo vicino alla famiglia, e invece vengono mandati a destra e a sinistra grazie proprio a questo problema dell'affollamento. Terzo, l'altro problema che viene fuori è il lavoro, il diritto, il detenuto quando è in carcere non perde i diritti fondamentali, quelli previsti dalla Costituzione per tutti i cittadini, detenuti e non, e quindi il diritto al lavoro è un altro degli elementi che deve essere garantito, e con l'affollamento non si riesce a garantirlo. Il diritto dei detenuti alla formazione, alla cultura, a studiare, e anche questo è necessario farlo, perché la cultura è il vero antidoto nei confronti di chi commette reati, per farli uscire dalla cultura e dalla illegalità. È stato chiarissimo, Marroni. Insomma, queste sono le richieste che le pervengono più frequentemente. Due ascoltatori, Massimiliano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Molto semplicemente, vedo che il dialogo è diventato un pochino tecnico. Io come cittadino sono più che altro preoccupato di quello che è successo con l'indulto, dove al di là della pena in termini di tempo... No, ma perché dice tecnico? Deve essere pratico. Nel senso, adesso le spiego. Praticamente quello che non riesco io a percepire come ascoltatore, può essere un problema mio, al di là della temporalità della pena, diciamo, però il problema è che reati contro la persona, contro i bambini, come è successo con l'indulto, quindi gente che ha stuprato, che poi è uscita e ha ristuprato nuovamente i bambini, eccetera, possa risuccedere. Beh, quindi, vede, però lei lo dice così, come se fosse il concetto della recidiva, cioè chi esce dal carcere ricommette, ci sono dei dati ben precisi, non è messo, lei la butta così, uno che ha stuprato un bambino, è uscito, l'ha rifatto. Non lo so, i dati dicono che le recidive sono bassissime in realtà, Massimiliano. Però noi come cittadini poi ho avuto occasione di parlare di queste tematiche anche con dei conoscenti e con degli amici. In realtà lo sentiamo molto, cioè ci sentiamo molto minacciati dal fatto che comunque persone che abbiano commesso reati contro la persona, contro la libertà della persona, possano tornare in libertà, cosa che invece ovviamente non sentiamo. È il sentire, è questa idea del sentire, ma interessante, si è parlato molto dei dati effettivi e della percezione dell'insicurezza. Stia attento, perché insomma su questo si può giocare molto, nel senso anche politico del tema. Senatore Li Gotti, io intanto non do la parola all'onorevole Cotta, ci ha dovuto lasciare con qualche minuto d'anticipo. Senatore Li Gotti, secondo lei quello che ci ha detto Massimiliano è uno spaccato di quello che è o di quello che la gente percepisce in maniera errata? Il problema della percezione è andato effettivo. È chiaro che la politica deve anche preoccuparsi della percezione dei cittadini, però poi bisogna tenere anche conto dei numeri. Allora, il tasso di recidiva nel nostro paese è del 25%, questo è un dato. L'istituto del quale stiamo parlando non riguarda questi reati, ma riguarda per lo più i reati contravvenzionali. Se uno fa una veranda abusivamente, se io posso ottenere che nella fase delle indagini costringo la persona che ha commesso questo reato a demolire il manufatto abusivo, promettendogli l'estinzione del reato qualora lo faccia e risarcisca il danno, ma perché deve aspettare la celebrazione dei processi per ottenere lo stesso risultato? In fondo è questo il problema. Stiamo parlando di questa tipologia di reati. Riusciamo, Luca, dalla provincia di Lucca, se è breve, Luca. Sì, telegrafico. Grazie. Buongiorno. Allora, l'America, che è un paese democraticamente ineccepibile, ha dei bellissimi campi di lavoro. Noi in Italia abbiamo miniere di lignite abbandonate e solfatare abbandonate, rispettivamente in Sardegna e in Sicilia. Campi di lavoro non farebbero molto comodo, specie per i reati contro il patrimonio, da truffe a tutto quello che riguarda, ad esempio, i reati, diciamo, dei colletti bianchi, eccetera. Sì, cioè i lavori forzati, giusto per dirla con una parola, lei, Luca? Pietre. Non ho capito, mi scusi. Un po' di sano spaccamento di pietre. Va bene, grazie. Grazie per... concludo con lei, con questa sua telefonata. Il tempo è finito. Voglio ringraziare il senatore Li Gotti, l'onorevole Cotta e Angelo Marroni, che è il garante dei detenuti della Regione Lazio. Come sentite, il tema è molto... molto vissuto con grande intensità. Torneremo a parlarne, anche perché prima di Natale pare Berlusconi ha detto ci vorrà un provvedimento in questo senso. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e Filippo Aureggi in regia. Viva voce, è radio24.it. A domattina.